Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Ancora una strage nel centro di Baghdad, 34 vittime e un centinaio i feriti. Nuovi equilibri nella maggioranza, questa sera la cena tra Berlusconi e Bossi. Il cadavere di un neonato trovato in un parcheggio nel Bergamasco. Lo sport, l'Inter questa sera sul sintetico di Mosca contro il CSKA alla ricerca della finale, della semifinale di Champions League. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. In primo piano la strage avvenuta nel centro di Baghdad dopo gli attacchi alle sedi delle ambasciate di due giorni fa. È di 34 morti e un centinaio di feriti l'ultimo bilancio della catena di attentati che ha scosso stamani Baghdad. Sei esplosioni hanno provocato il crollo di diversi edifici in un quartiere a maggioranza sciita. Di sicuro un attacco kamikaze ha colpito un popolare ristorante ad Allawi, vicino ad Haifa Street, nel centro della capitale, accanto al Ministero della Cultura e all'Ambasciata dell'Iran, nel mirino la scorsa domenica. A Pasqua, infatti, kamikaze a bordo di tre autobomba hanno lanciato attacchi contro le ambasciate appunto dell'Iran, ma anche di altri paesi arabi ed europei. Allora sono stati almeno 30 i morti e 224 i feriti. Quello odierno è il quarto attentato che provoca un così alto numero di vittime negli ultimi 5 giorni. La violenza a Baghdad e nel paese intero ha conosciuto un'escalation dopo le elezioni del 7 marzo, da cui ancora non è emerso un chiaro vincitore. I vari leader politici faticano infatti a raccogliere il consenso necessario per formare un governo. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Ora ci trasferiamo all'Aquila. Anche oggi la città è in lutto. Questa notte alle 3.32 è stata ricordata la scossa che un anno fa distrusse il centro storico e molti paesi limitrofi. Ci colleghiamo con Andrea Viali, che ha seguito per noi le cerimonie. Buongiorno Andrea. Sì Enrico, come dicevi anche tu, anche oggi è una giornata di lutto, negozi e uffici sono chiusi qui all'Aquila e anche oggi in città sono in programma diverse iniziative per ricordare le vittime del terremoto. Continuano quindi queste commemorazioni che, come dicevi, nella notte hanno raggiunto forse il punto più toccante, più emozionante, quando nell'ora esatta della scossa che un anno fa ha devastato la città, cioè alle 3.32 a Piazza Duomo, sono stati letti i nomi di tutte le 308 vittime. Ad ascoltarli c'erano almeno 20.000 aquilani con migliaia di fiaccole accese. Stamattina, in memoria delle persone che hanno perso la vita nel terremoto, è stata anche deposta una corona nel piazzale della caserma di Coppito. C'era il capo della Protezione Civile Bertolaso, il quale ha parlato anche delle contestazioni che ieri hanno accompagnato la lettura del messaggio del Premier Berlusconi nel corso del Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto a Piazza Duomo. Ma sentiamo cosa ha detto Bertolaso. In un consiglio comunale bisognerebbe avere maggiore riguardo per le istituzioni. Il consiglio comunale è eletto dai cittadini, espressione dei cittadini, della stragrande maggioranza di quei cittadini che in questi mesi mi pare abbiano apprezzato il lavoro fatto e abbiano condiviso le scelte e le responsabilità che ci siamo presi. Poi alla fine forse una minoranza ha la meglio su quella che è la cosiddetta maggioranza silenziosa, ma non cambia l'ordine dei fattori. La realtà è che qui si è fatto un bel lavoro. È giusto che vi sia chi non è d'accordo, forse non era giusto il luogo dove questi hanno espresso il proprio dissenso. Ecco, questo è il pensiero di Bertolaso. Ieri sempre nel Consiglio Comunale è stato letto anche un messaggio del presidente Napolitano. Il capo dello Stato ha sottolineato in particolare lo spirito unitario che ha accomunato tutti quelli che hanno partecipato ai soccorsi qui all'Aquila, ma ha anche invitato la Protezione Civile a dedicarsi soprattutto alle calamità naturali più che ai grandi eventi, aggiungiamo noi. Comunque, per tornare alla giornata di oggi, fra le varie iniziative in programma segnalo anche una corona umana che verrà formata da migliaia di aquilani che poi faranno volare in cielo decine di palloncini bianchi per ricordare le vittime del terremoto. Dall'Aquila è tutto, Enrico. Bene, grazie ad Andrea Viale. Adesso parliamo di politica. Questa sera a cena si incontreranno Berlusconi e Bossi. Potrebbe passare come la solita cena del caminetto di Villa San Martino, ma è certamente qualcosa di più. Berlusconi e Bossi si incontrano per la prima volta dopo le elezioni regionali, con l'ottimo risultato della Lega e il PDL in discesa. Il Carroccio pone subito le condizioni per cambiare l'assetto dello Stato. Lo fa il ministro degli interni Roberto Maroni in un'intervista al Corriere della Sera. Le riforme devono essere in mano alla Lega, Senato federale, cambio del titolo quinto della Costituzione. Poche materie di competenza dello Stato, il resto alle regioni, immediata riduzione del numero dei parlamentari, presidenzialismo alla francese, dialogo con il Partito Democratico per l'approvazione da parte dei due terzi del Parlamento. Per quanto riguarda il Ministero delle Politiche Agricole, lasciato da Zaia, ora eletto governatore del Veneto, il Carroccio non pone condizioni, mentre mette un'ipoteca sul futuro sindaco di Milano, che, insiste Maroni, è già stato prenotato da Bossi. Anzi, anche riguardo al futuro sindaco di Napoli. Da parte dell'opposizione il Partito Democratico è disponibile al Senato federale e alla riduzione del numero dei parlamentari, ma chiede a Maroni di includere nelle riforme anche la cittadinanza e l'immigrazione. Elisabetta Fiorito, GR24 e Sole 24 Ore Roma. E adesso il punto di Stefano Folli. Si avvicina il momento in cui si dovrà fare sul serio per le riforme istituzionali, oppure rendersi a un nuovo fallimento che nessuno si augura. È chiaro che se si vuole un accordo più ampio in Parlamento, al di là quindi della maggioranza di governo, si deve lavorare per un compromesso e si capirà presto se c'è la volontà di cercarne uno. Ognuno dei due poli avrà la sua parte di responsabilità. Al centrodestra, oggi Berlusconi incontra Bossi, tocca fare la prima mossa. Sappiamo che sul federalismo e sulla cosiddetta bozza Violante, che in qualche misura definisce il riassetto istituzionale dello Stato, esiste una possibilità di intesa con l'opposizione. Viceversa, sui temi della giustizia, cari al Premier, e sul presidenzialismo, nei termini in cui ne parla Berlusconi, ecco, qui ci si divide e l'accordo si allontana. A sua volta l'opposizione deve decidere, fare un accordo con Berlusconi pensando al futuro del Paese, oppure mettersi di traverso e obbligare la maggioranza ad andare avanti per conto suo, con tutti i rischi di lacerazione del tessuto nazionale e di aumento della tensione. Insomma, il tempo di scegliere una volta per tutte è vicino, anzi non è mai stato così vicino. Adesso apriamo una pagina sugli esteri. È salito a 65 morti il bilancio dell'imboscata dei maoisti contro un convoglio di poliziotti avvenuta in India. Si tratta di uno degli attacchi più gravi mai compiuti dai ribelli comunisti attivi nel centro e nord-est dell'India. L'imboscata è avvenuta all'alba in una sperduta giungla nella roccaforte degli Insorti, dove è in corso un'offensiva del governo di Nuova Delhi contro i guerriglieri. Quattro gruppi palestinesi della striscia di Gaza hanno annunciato lo stop dei lanci di razzi Qassam contro Israele dopo l'escalation delle ultime settimane. Pochi giorni fa Israele aveva minacciato di lanciare una nuova massiccia offensiva sulla striscia di Gaza in risposta ai nuovi attacchi dell'ultimo mese contro i centri abitati del Negev occidentale. Tensione anche in Thailandia, dove le autorità hanno emesso mandati di arresto contro 10 leader delle camicie rosse antigovernative con effetto immediato. Il braccio di ferro con gli oppositori del governo continua ed è ormai un mese che le camicie rosse sono in piazza. La guerra di nervi tra il governo thailandese e i manifestanti in camicia rossa che ne chiedono dimissioni sta proseguendo anche oggi, con i dimostranti che paiono determinati a non farsi intrappolare nelle zone a loro assegnate, puntando invece a invadere i quartieri finanziario e diplomatico. La decisione di violare il divieto imposto dalla polizia è stata presa nel primo pomeriggio, dopo che in mattinata i manifestanti sembrano aver rinunciato ad andare allo scontro. Le camicie rosse non sembrano disposte a trattare, chiedono elezioni subito, mentre il governo vorrebbe aspettare almeno altri 9 mesi. Chi si trova ogni giorno di più in una situazione imbarazzante è il primo ministro Abhishek Vejjajava. La sua tattica di temporeggiare, sperando così di sfiancare i dimostranti, non sembra dare i frutti sperati, ma ordinare una repressione adesso potrebbe essere pericoloso. C'è il rischio che la situazione sfugga di mano, dando luogo a violenze e un'ulteriore ondata di simpatia per i manifestanti. Allo stesso tempo però, restare con le mani in mano dopo 3 settimane di marce attraverso alcuni dei quartieri più importanti della capitale rischia di incrinare fatalmente la credibilità dell'esecutivo agli occhi di quelle elite cittadine che gli hanno consentito di salire al potere. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. La Russia potrebbe uscire dalla nuova edizione del trattato START che verrà firmato giovedì se si sentirà minacciata dallo scudo antimissile americano. Sentiamo i particolari nel servizio. Il primo passo della strada che Barack Obama vuole imboccare oggi, quando annuncerà la sua revisione della politica nucleare americana, sarà la firma del nuovo trattato START, in programma a Praga giovedì. Torneranno insieme Obama e Medvedev, il presidente russo, a poco più di un anno dal loro primo incontro. annunceranno un taglio dei rispettivi arsenali nucleari pari a un terzo delle testate, per scendere da 2200 a 1150. Secondo gli esperti, l'importanza dell'accordo non è tanto nei numeri, perché le testate restano comunque troppe, ma nei meccanismi previsti per le verifiche degli arsenali e nella trasparenza chiesta ai rispettivi governi. Il Cremlino sottolinea dunque che questo START 2 può essere l'inizio di una nuova relazione strategica tra Russia e Stati Uniti, un appoggio di cui Obama ha più che mai bisogno per proseguire verso quel mondo che vorrebbe completamente privo di armi nucleari. Antonella Scott, GR24 sulle 24 ore, Mosca. I media internazionali attaccano il Papa per il silenzio sul tema pedofilia. Intanto in Italia esce un volume con la denuncia di decine di casi di abusi. Solo il Papa non chiede scusa. Così alcuni media internazionali hanno criticato la scelta del pontefice di non far riferimento esplicito allo scandalo pedofilia durante le celebrazioni pasquali appena concluse. Dal Pais al Le Monde si punta il dito contro il silenzio di Benedetto XVI, travolto da uno scandalo che la Washington Post paragona addirittura al Watergate. La Chiesa tuttavia fa quadrato intorno al Papa, dal cardinale Casper al cardinal Sodano, passando per il cardinal Martini, che nel definire le accuse ignobili e false ha sollecitato pronunciamenti a sostegno del pontefice anche fuori la Chiesa. In Francia, ad esempio, un gruppo di intellettuali di varia matrice ha dato via ad una sottoscrizione per esprimere solidarietà alle vittime della pedofilia, ma anche al Papa, diventato bersaglio privilegiato. Intanto in Italia esce un volume anonimo che raccoglie decine di casi di abusi compiuti da religiosi, mentre il portavoce Vaticano, padre Federico Lombardi, ricorda che la Chiesa non è una multinazionale, non si possono imputare a Roma responsabilità concrete delle autorità locali. Katia Caramelli, GR24, il Sole 24 Ore. Adesso cambiamo decisamente argomento. Un buono omaggio scaricabile via internet per avere una prestazione sessuale gratis. È la provocazione del Comitato per i diritti civili delle prostitute di Pordenone. La campagna durerà fino al 10 aprile e si chiama Io ci sto e tu. Sul sito dell'associazione da oggi è scaricabile l'invito per incontri con le attiviste del comitato. La presidente dell'associazione, Pia Covre, spiega i motivi dell'iniziativa. L'ha intervistata Paolo Panceri. Questa campagna la facciamo soprattutto per sensibilizzare la società e anche ovviamente protestare contro quella legge che è il favoreggiamento della prostituzione, che continua ad essere applicata contro gli editori che pubblicano gli annunci commerciali delle lucciole o così come i siti internet, perché ci viene detto che non possiamo lavorare in strada, poi allo stesso tempo quando ci ritiriamo negli appartamenti o che non possiamo farci la pubblicità. Vorremmo che fosse riconosciuto che questo è un lavoro, un'attività commerciale. Il vero problema è ammettere che questa è una professione per chi la sceglie liberamente e quindi trovare delle soluzioni adeguate. Seconda parte dell'edizione di GR24 delle 13. Abbiamo una notizia battuta poco fa dall'agenzia ANSA. Il cadavere di Francesco Sammartano, 30 anni, uno dei due fratelli dispersi da due giorni nel mare davanti a Favignana, è stato recuperato questa mattina sul lido di Valderici, a 15 chilometri da Trapani. Notizia di poco fa. C'è un'altra notizia di cronaca sulla quale ci sono ancora pochi particolari. Il cadavere di un neonato è stato trovato questa mattina ad Arcene, in provincia di Bergamo, nel parcheggio di una discoteca. A scoprire il bambino senza vita, avvolto in una coperta e sistemato in una busta di plastica, è stato un operatore dell'azienda della nettezza urbana del comune. Quando è stato trovato, il bambino, di carnagione chiara, aveva ancora una parte del cordone ombelicale attaccato. I carabinieri stanno indagando per risalire alla madre del piccolo, che potrebbe essere stato abbandonato nella notte o addirittura domenica. Parliamo della nuova ispezione del Ministero della Giustizia. Questa volta è stata la scarcerazione di un camorrista a fare scattare i controlli. Il ministro della giustizia Angelino Alfano vuole vederci chiaro sulla scarcerazione del boss della camorra Ettore Bosti, tornato in libertà lo scorso 2 aprile grazie ad una serie di cavilli giudiziari. Il guardasigilli ha disposto due ispezioni, una a Napoli, una ad Asti, dove il boss era detenuto, per accertare se la sua scarcerazione sia stata determinata da eventuali negligenze sentenze da parte dei titolari del fascicolo. La nullità della misura cautelare era stata chiesta dai legali di Bosti per l'assenza dei supporti magnetici delle intercettazioni telefoniche svolte. Il procuratore di Napoli Lepore difende l'operato del suo ufficio. Ettore Bosti, figlio del capoclan Patrizio, era stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del 17enne Ciro Fontanarosa, che si era rifiutato di entrare a far parte del clan. Nei giorni scorsi erano stati scarcerati anche i due componenti del comando omicida. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il 15 aprile presso il Ministero della Giustizia si terranno gli stati generali delle professioni. Il ministro Angelino Alfano ascolterà i delegati di 24 ordini che racchiudono quasi 2 milioni di professionisti in Italia. Al primo posto in agenda la questione delle tariffe minime abolite dal decreto Bersani nel 2006. Rimuoveremo tutte quelle lenzuolate, ha già detto il ministro della Giustizia, che con il finto intendimento di proteggere i cittadini hanno penalizzato tutti i professionisti italiani. Queste le parole del ministro Alfano. Ma quello dei minimi tariffari non è l'unico nodo da sciogliere. Claudio Sicigliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, intervistato da Roberta Pellegatta. Noi ci aspettiamo soprattutto chiarezza. Chiarezza vuol dire prima di tutto stabilire che cos'è una professione, e io penso che ci aspettiamo dal Ministro che sia definitivamente sancito quel principio costituzionale secondo il quale una professione è quell'attività a cui si accede per il tramite di un esame di Stato. Secondo aspetto, ci aspettiamo qualità, la formazione professionale continua e il riconoscimento di una specializzazione tecnica. E terzo elemento, ci aspettiamo che sia dato una spinta all'organizzazione degli studi professionali. Non si affronta la crisi internazionale con strutture deboli, ma con strutture integrate. Andiamo al dibattito fiduciosi, non abbiamo niente da difendere. Quindi sarete compatti? Mi auguro di sì. Le professioni non sono tutte uguali, ma questa impostazione che io le sto rappresentando mi sembra condivisa a livello CUP, e quindi non ho motivo di ritenere che non sia questa la base attraverso la quale affrontare questo problema. Crescono ancora i prezzi della benzina, con la Kuwait che vola oltre 1,425 euro al litro. Secondo le rilevazioni della Staffetta Quotidiana, anche il gasolio cresce di 2 centesimi a 1,259 euro. La Nissan ha richiamato in Giappone 25.000 auto per un difetto al pedale dell'acceleratore. I modelli sono stati costruiti tra ottobre 1998 e agosto 2002 e, come dicevamo, riguardano solo il Giappone. Intanto la Toyota rischia negli Stati Uniti una multa da 16,4 milioni di dollari per avere consapevolmente nascosto il difetto riscontrato all'acceleratore di 8 milioni di automobili. La Banca Centrale Australiana ha aumentato oggi per la quinta volta da ottobre il tasso ufficiale di interesse di un quarto di punto, di fatto dichiarando avviata la ripresa economica. Il tasso ufficiale sale così al 4,25%, il livello più alto degli ultimi 14 mesi. Le cose vanno diversamente in Europa, dove la Banca Centrale non dovrebbe toccare il tasso nella riunione di giovedì. Nessuna novità anche dalla Banca del Giappone, che si riunisce domani. In tutti i casi c'è attesa per le considerazioni dei governatori. Ed ora sentiamo com'è andato il sondaggio di Radio 24. La domanda di oggi era: denuncereste un evasore fiscale? Sentiamo. Gli italiani denunciano al fisco una media di poco più di 15.000 euro, almeno così dicono le dichiarazioni del 2009. Il 25% dei contribuenti italiani addirittura dichiara zero assoluto. Niente da dire, siamo un paese di poveri, o forse di finti poveri. Già, perché l'evasione fiscale stimata in Italia ci toglie un gruzzolo di 100 miliardi di euro l'anno, che potrebbero servire non poco. E allora oggi vi chiedevamo nel nostro sondaggio, visto che è possibile fare voi denuncereste un evasore fiscale chiamando la Guardia di Finanza? Ebbene, il 62% di voi dice di sì. Negli Stati Uniti è pratica diffusa e chi lo fa ottiene anche una ricompensa. Ma per Carlo Stagnaro, tra i fondatori dell'Istituto Bruno Leoni, quella della soffiata al fisco è una pratica che, anche se funziona, è sbagliata. Io credo che insinuare una cultura per cui non solo tu devi fare il tuo dovere, ma devi anche cacciare l'occhio nella serratura del tuo vicino, significa delegare ai cittadini il lavoro sporco che giustamente le istituzioni non possono fare perché devono rispettare le loro stesse leggi. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24 torna domattina alle 8.30. Per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso c'è lo sport per il calcio. Questa sera il ritorno dei quarti di finale di Champions League alle 18.30 con la diretta su Sky. L'Inter gioca a Mosca sul campo sintetico del CSKA dopo la vittoria per 1-0 all'andata. Sentiamo il servizio. Mourinho ha scelto di parlare del rumore dei nemici per preparare i 90 minuti che possono valere la semifinale che in casa Inter manca dal 2003. Rumore per il campo sintetico dello stadio Luzhniki, l'unico tra le 32 iscritte alla Champions, che al portoghese non piace, e rabbia per lo spostamento di CSKA Zenit in programma sabato scorso, che ha regalato ai russi giorni di riposo non previsti. Dello stesso modo che qualche mese fa ho fatto i miei complimenti al dottor Galliani, quando ha fatto una giocata intelligente. Dello stesso modo faccio questi complimenti a CSKA. Annunciati 6 undicesimi di formazione, ci sono Giulio Cesar, Zanetti, Maicon, Cambiasso e Toe Milito. In dubbio Snyder, ma Mourinho farà di tutto per recuperarlo. Solo in extremis la decisione su Balotelli, che può essere l'arma in più da giocare anche nel corso della gara. Il CSKA è senza Krasic e Aldonin squalificati. Si gioca alle 18 ora italiana. A Mosca non fa freddo, l'Inter difende l'1-0 dell'andata e può passare anche perdendo. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Ricordiamo che l'Inter si qualifica se vince o pareggia, ma anche se perde con un gol di scarto, ma segnando almeno una rete. Sempre questa sera, ma alle 20.45, l'altro quarto di finale tra Barcellona e Arsenal, domani Manchester-Bayern e Bordeaux-Lione. Parliamo di golf adesso. Ieri, prima conferenza di Tiger Woods dopo lo scandalo sessuale. La polo ed il cappellino candidi con cui si presenta nell'affollata sala stampa di Augusta, Georgia, sono quasi un messaggio subliminale. Scordatevi, sembra dire tutto quel bianco, il Tiger Woods emblema di tutti i mali. Il marito con l'ossessione del sesso, il pessimo padre, il giocatore finito. Tiger is back, Tiger è tornato. Woods, in 34 minuti d'altrettante risposte, si scrolla di dosso il periodo nero, con tanti sorrisi da apparire quasi un atteggiamento studiato. A lot has happened in my life. Dopo questi 5 mesi non sapevo quale accoglienza attendermi. Nel pubblico è stato eccezionale, così come i miei avversari. Ringrazio tutti. Sulla sua odissea privata, Tiger mette una pietra tombale. I 45 giorni passati in clinica, dice, sono stati importanti. Ho capito che stavo mentendo a me stesso e agli altri. Accanto a Woods, qui a Augusta, non ci sarà la moglie Ellen, con cui è ricucito a fatica il rapporto. So di aver fatto del male a tanta gente col mio comportamento. Le responsabilità sono solo mie, conclude Woods. Ora sono pronto ad essere una persona migliore e a tornare a vincere, e tutto quel bianco brilla a favore di flash e telecamere. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E con questo servizio, con lo sport, si conclude questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini. Ringraziamo in regia per la parte tecnica Carmelo Lauricella. La prossima edizione di GR24 andrà in onda alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.